Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I Black Cats si trovano in Italia perché l'allenatore Paolo Di Canio li ha portati in ritiro estivo qui. Ed io, ora, con una emozione indescrivibile, potrò incontrarli. Sono Alessandro, vivo a Melzo e ho due grandi amori, la mia compagna ed il Sunderland. In quest'ordine perché domani sera non vorrei dormire sul divano. Di solito succede in una maniera abbastanza semplice. Per innamorarsi di qualcosa, di qualcuno no, un po' diverso, però per innamorarsi di qualcosa devi conoscerne la storia, cioè devi avere un minimo di conoscenza, anche solo di uno o due episodi o di un aneddoto, no? Cioè se ti devi quando ti innamori di un'auto usata, ad esempio, la vedi fotografata sull'annuncio ed è una cosa, poi vai a vederla e il proprietario ti dice: beh, con questa ci ho fatto 10.000 chilometri nella steppa russa, oppure questa ha resistito a una mega grandinata sopra la città. E semplicemente un po' te la umanizza, ma soprattutto un po' ti dice un pezzo di storia sua, e tu te la senti più vicina. Per i luoghi vale lo stesso, no? Vai a vedere le case e qualcuno ti dice: beh, in questa casa ci ha dormito Garibaldi, che vale un po' dappertutto. Garibaldi e Mazzini hanno dormito un po' dappertutto in Italia. Per gli sportivi anche così, ti piace uno sportivo, non ti piace semplicemente perché fa bene il salto in alto o perché col salto con l'asta è il migliore di tutti, ma perché magari hai sentito da un commentatore sportivo un pezzo della sua vita che te lo fa sentire vicino. Ecco, come la storia del portiere americano di cui avevo raccontato qualche tempo fa, che ha la sindrome di Tourette. La stessa cosa, identica. Nella puntata di oggi invece raccontiamo esattamente il contrario. Raccontiamo la storia di Alessandro, che ci dice per quale motivo, in realtà ci racconta che non c'è un motivo, un bel giorno lui si è innamorato di una squadra di calcio piccola, sconosciuta, o meglio non così conosciuta, e inglese, che è il Sunderland. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui e noi raccontiamo storie, lo facciamo tutti i giorni alle 16 in diretta su Radio 24, dalle 16 alle 16.30, è quasi mezz'ora in cui prendiamo un pezzo della vita delle persone che hanno voglia ovviamente di condividerlo e lo raccontiamo a tutti quelli che ascoltano. Potete partecipare al programma, ormai lo sapete, la quarta stagione, mandando una mail a voisietequi@radio24.it e inviando un pezzo della vostra storia, un pezzo di storia vostra che racconti qualche cosa di voi. Basta un episodio. 349-238-6666, questo è il numero per mandare gli sms. Se anche voi, un po' come Alessandro, avete una passione senza senso, dove per passione senza senso intendo una passione che non è giustificata dal fatto che vostro padre ce l'aveva e ve l'ha tramandata, o giustificata dal fatto che nella vostra squadra, nella vostra città c'è una squadra di rugby fortissima e voi seguite il rugby, questo chiaramente viene da sé, no? Sì, si capisce, no? Una passione per, che so io, fare i galeoni spagnoli con gli stuzzicadenti, una roba del genere. Se avete una passione che pare non avere una giustificazione, 349-238-6666 o altrimenti il profilo Twitter del programma, che è lì con le sue belle ditine margheritaina a seguire, che è R24, giusto? No, aspetta, che Voi Siete Qui R24 su Twitter, mentre Voi Siete Qui Radio 24 su Facebook. Anche i personaggi storici ogni tanto ti piacciono perché sai qualcosa di particolare di loro, perché fino a che sai solo la grande storia, quello è andato lì, ha fatto la battaglia, ha vinto, ha perso, quando poi conosci qualcosa in più. E invece niente, Alessandro si innamora del Sunderland, conosce tutti i giocatori del Sunderland, e non si capisce bene perché non è inglese e la sua pronuncia, devo dire, non è un granché. Io vi ricordo però, prima di cominciare a raccontare la storia di Alessandro, che non domenica questa, quella dopo, il 5 di ottobre, se volete farvi un giro al Salone Nautico di Genova, se vi piacciono le navi, se vi piace anche solo Genova, le navi è un po' troppo, le barche direi, e se volete soprattutto sentire storie di mare raccontate dal vivo, noi siamo lì alle 17 in punto domenica 5 ottobre. L'iscrizione è gratuita attraverso il sito, entrate nel sito, trovate Voi Siete Qui speciale Salone Nautico e entrate gratis non solo al nostro live ma anche a tutto il Salone Nautico, che comunque è un bel andare. Sono le 16, 12 minuti e 35 secondi e questa è la storia di Alessandro. Wow, si trattano bene, eh? La voce della mia fidanzata mi risveglia dal torpore. Eh sì, si trattano bene sì, penso tra me e me. Siamo a Peschiera del Garda, in un bellissimo residence, immerso nel verde, dove si trova ciò che sono venuto a vedere. Da anni sono tifosissimo di una squadra inglese sconosciuta alla maggior parte del pubblico italiano, salita agli onori della cronaca solo da un paio d'anni per la presenza di un allenatore italiano ora esonerato e di quattro giocatori nostrani. Insomma, sono un tifoso del Sunderland. Sono diventato tifoso del Sunderland per la passione che ci mette la gente di lì nel seguire la propria squadra. E anche nei momenti di difficoltà, come quando ho cominciato a seguire io la squadra nel 2002, la gente applaudiva comunque i ragazzi nonostante perdessero partite su partite su partite, solo per l'impegno. I Black Cats si trovano in Italia perché l'allenatore Paolo Di Canio li ha portati in ritiro estivo proprio qui. Ed io, ora, con un'emozione indescrivibile, potrò incontrarli. Ok, amore, scendiamo. Hai la macchina fotografica e il quaderno per gli autografi? Chiedo alla mia fidanzata mentre apro la portiera. Sì, per chi mi hai preso, risponde lei sbuffando. Chiudo la macchina, mi giro e vedo due ragazzi che stanno lasciando il centro sportivo e si stanno avviando verso l'albergo. Inseguili, se no la foto e gli autografi non le avrai mai. Sento la voce della mia ragazza, ma non mi muovo. Non so, sarà l'emozione, sarà che un po', diciamocelo, mi vergogno, ma non riesco a muovermi. O vai tu o vado io, mi dice, e la vedo superarmi e puntare dritto verso i due malcapitati. Quella è la molla che mi fa scappare. Sorry Adam, sorry Danny, can I have a photo with you? Il mio inglese mette i brividi. Ecco, mo questi o scoppiano a ridere per l'indecenza del mio inglese o mi mandano direttamente a quel paese perché vado a rompergli le scatole. Penso tutto questo guardandoli in faccia, e invece no, sono gentilissimi. Autografo di entrambi e foto tutti e tre insieme. Ecco, da quel momento un normale pomeriggio di metà luglio si è trasformato in una giornata che non dimenticherò mai. Più tardi incontro anche Jack Colbach al bar e anche lui è gentilissimo. Si stupisce che esistano tifosi del Sunderland in Italia e ne sembra contento, visto che lui, oltre ad essere un giocatore, è anche tifoso della squadra, visto che è nato vicino a Sunderland e ha fatto tutta la trafila, dalle giovanili fino al club. E poi, piano piano, li incontro tutti. Da John O'Shea, il capitano, a Jordan Pickford, terzo portiere di 18 anni. Rimango impressionato dalla gentilezza e dalla disponibilità di tutti i ragazzi della rosa. Tutti si fermano. Nessuno si sottrae alla richiesta di una foto e di un autografo di questo strano italiano che pare un bimbo il giorno del suo primo Natale. Quello che mi ha stupito di più è stato Sebastian Larsson, che dopo l'autografo si è fatto la foto con me, con gli occhiali da sole, se n'è accorto, si è scusato e me l'ha fatta scattare un'altra senza. Quando li ho incontrati ho cercato di parlare l'inglese mio, che è, diciamo, orribile, e alcuni si sono stupiti perché non è normale trovare tifosi italiani di questa squadra. Fai conto che ci sono circa una cinquantina di tifosi in tutta Italia. Nel percorrere la strada del ritorno, le sensazioni che provo stanno lasciando il passo ad un senso di tristezza per la fine di quella bellissima giornata. E a me la tristezza non piace. Quindi guardo la mia ragazza e le dico: amore, domani e dopodomani torniamo. Dai, sennò poi partono. E quella santa donna che oggi è ancora al mio fianco e che grazie a Dio mi ama anche in queste follie, guardandomi mi risponde: va bene, tanto lo sapevo che sarebbe finita così. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Ovviamente la foto che ci manda Alessandro è scattata in quel posto, dietro si vedono delle viti, delle vigne bellissime, lui ha su una maglia a righe verde e azzurra, sinceramente mi sarei aspettato la maglia del Sunderland, e invece no, ha una macchina fotografica appesa al collo, quindi evidentemente non bastava quella che gli sta scattando la foto in questo momento, ed è abbracciato a due tizi che non so chi siano, ma immagino siano giocatori del Sunderland. Pronto Alessandro? Pronto Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Benone, dove ti trovi? In questo momento in un parcheggio in un supermercato. Benissimo, che è il secondo posto più utilizzato dagli ascoltatori di Voi Siete Qui per intervenire in diretta. Il primo è, ricordiamo, il bagno. Io lavoro con la grande distribuzione, quindi figurati, per me è il pane. Quindi lavori con la grande distribuzione, vuol dire che passi da un supermercato all'altro, più o meno. Bravissimo, esatto. Esattamente cosa fai con o per la grande distribuzione? Faccio il rilevatore di dati statistici. Quello con la praticamente quello con la macchinetta. Sei quello con la macchinetta. Bravissimo. Che non capisco mai cosa fa questo con la macchinetta, se controlla i prezzi, se vede cosa manca. Sì, una specie, un controllo dei prezzi, diciamo. Ma tu lavori per la grande distribuzione o per una multinazionale, insomma, un'azienda? Per un'azienda che lavora per i produttori. E che vende una marea di roba, immagino. Sì, hanno un sacco di prodotti. E da quanto ci lavori lì? Una decina d'anni ormai. E a quanti? Ecco, partiamo da qua, scusami Alessandro. Quanti anni hai tu, me lo ricordi? 33, quindi non sei proprio un bambino. Sei un ragazzo, cioè sei un giovane lavoratore per essere in Italia, però non c'hai, insomma, 16 anni. E la tua fidanzata, che è la chiave di volta di questa puntata in realtà, cioè, la chiave di lettura di questa storia è la fidanzata. Lei quanti anni ha? Ne ha... Oh madonna, adesso mi metto, dico 29. Benissimo, siamo tutti con lei, starà ascoltando, immagino. E le vogliamo un sacco di bene. Quando nasce questa cosa per il Sunderland? Quando si sviluppa? Perché? Perché è difficile da spiegare, come dicevi tu, non ha grande senso, nel senso che è come quando ti innamori di una ragazza, no? Non sai il perché. Io guardando è difficile da spiegare, perché comunque un giorno ho acceso la televisione, sì, e c'era una partita, la squadra di casa, che in questo caso era il Sunderland, stava perdendo, sì, 3-0. La gente a fine partita si è alzata e ha cominciato ad applaudirli. Erano retrocessi con quel 3-0. Eppure la gente era in piedi ad applaudire. Cioè è una cosa che qui in Italia non vedrai mai. No, insomma, diciamo che è molto molto molto complicata. Basta stare una volta in uno stadio in cui la squadra di casa perde e si capisce. Tra l'altro, io volevo chiederti, Alessandro, visto che tu pronunci Sunderland e io invece dico come tutti, come viene male, Sunderland, volevo chiederti se si dice invece la pronuncia corretta è Sunderland, perché mi scrivono adesso, è praticamente in Scozia e la U si pronuncia U e non A, e la S è quasi una Z, mi scrive Francesco. Esatto, sì, per loro sei arrivato a Sunderland, non sei a Sunderland. Ok. Infatti l'ho scoperto andando là, naturalmente. Perché tu ci sei andato, ovviamente. Ovviamente. Scusa, scemo io a non immaginarlo. Dopo un mese ero allo Stadium of Light, sempre con la Santa Donna, certo, a vedere la partita. Lei veramente si fa delle vacanze? Dove l'hai portata in vacanza quest'estate? In Irlanda e in Inghilterra. Non siamo amanti del mare, diciamo. Okay. No, però diciamo, hai fatto qualcos'altro oltre che comprare magliette in giro per le bancarelle? Sì, no, magliette delle squadre di calcio, intendo. Sì, no, la vacanza diciamo che era più che altro per andare a vedere Londra. Non okay. che Londra e Sunderland siano vicine. No, certo. Però ho detto, vabbè, dai, approfittiamo. Beh, poi insomma, comunque grande calcio anche a Londra, no? Tra Chelsea, Tottenham, Arsenal. Ma gli stadi sono qualcosa di... Sì. Alessandro, quando tu mi ha un po' inquietato il fatto che tu abbia detto in Italia saremo una cinquantina di tifosi del Sunderland, nel senso che vi siete contati, avete fatto un raduno. No, c'è un fan club. Certo, che si chiama, vado subito a vederlo ovviamente, che si chiama... Gatti Neri Brescia. perché Black Cats, spiegalo tu, è il soprannome, giusto? Il soprannome dei giocatori del Sunderland. E sappiamo perché? Sì, dovuto a varie storie, si diceva che ci fosse un tifoso che è entrato nella finale del FA Cup con un gatto nero in tasca e la squadra avesse vinto. C'era un gatto nero che girava nei dintorni dello stadio, la gente gli dava da mangiare, l'ha fatto diventare lo stadio la propria casa ed è rimasto comunque Black Cats. Ok, Alessandro, prima di salutarti, ti dico solo una cosa, dimmi. Io ti ho mandato No, voleva dirmi una cosa, Alessandro, una cosa, non dite mai volevo dirti una cosa quando ho chiamato una radio, perché cade la linea e non è stato Pietro La Corte. Prima di, vabbè, a questo punto saluto Alessandro, voglio leggere solo un sms che dice, a proposito di squadre che perdono e non vengono applaudite, quando è retrocesso il Verona in C, in 28.000 applaudivano la squadra. Perché se c'è una cosa che mi fa impazzire sono le passioni senza senso, quelle che spuntano dal nulla, che non hanno un'origine sensata o una derivazione familiare, perché di solito, dico di solito, le passioni si tramandano oppure si sviluppano al contrario per reazione. Per cui, che so, i nostri genitori vanno in montagna e a noi viene voglia di andare in montagna, o per reazione iniziamo ad andare al mare e impariamo a portare una barca a vela, ad esempio. Ci sono invece delle passioni che vengono lanciate da delle superstar, che esplodono in quel settore lì e si portano dietro quindi una scia di entusiasmo, che quindi aumenta la voglia di fare quell'attività. Le iscrizioni ai club aumentano, le persone che fanno quell'attività aumentano. Di solito parliamo di sport, penso, che so, a Tomba durante la sua epoca d'oro e lo sci, o a Panatta che fa aumentare le iscrizioni alle scuole di tennis. O anche solo all'esperienza velica di Azzurra prima e di Prada e Luna Rossa poi alla Coppa America. Insomma, voglio dire, c'è sempre un motivo per cui in ognuno di noi si sviluppa una passione. Mentre la storia di Alessandro è splendida proprio per la sua totale arbitrarietà. Cioè il Sunderland Association Football Club, noto semplicemente come Sunderland, è la squadra della città di Sunderland, appunto che si trova nel nord-est della Gran Bretagna. È una città portuale e ha circa 180.000 abitanti. La squadra è in Premier League, cioè l'equivalente della Serie A italiana, c'è dal 2007 ed in effetti da qualche anno le squadre italiane fanno scambi più o meno proficui con questo team. Ma detto tutto questo, rimane sempre il mistero, no? Il motivo per cui ad alcune persone nascono misteriose passioni fuori dal recinto che frequentano abitualmente. Al mio paese c'era un signore, lo chiamavano Picchetto perché era un ex sindacalista, che stravedeva per un cantante norvegese. Questo cantante norvegese si chiamava Umpala. In paese si parlava di questi suoi viaggi frequentissimi in Norvegia e si pensava che li facesse per chissà quale motivo, perché aveva una famiglia probabilmente o anche solo una fidanzata. E invece alla fine lui riuscì anche a portarlo alla festa del paese, quel cantante, essendo lui assessore comunale. E a quella festa Umpala arrivò e cantò una sorta di incrocio tra una musica pop, il liscio e la musica tradizionale scandinava. E ricordo Picchetto in estasi e quelle 70-80 persone presenti in piazza più o meno esterrefatte e annoiate. Ricordo che lui propose anche un gemellaggio con Mandal, mi pare che fosse, la cittadina da cui Umpala proveniva, ma senza successo. Picchetto purtroppo non c'è più, altrimenti lo avrei chiamato adesso in diretta e gli avrei chiesto perché impazziva per quel cantante norvegese, ma soprattutto come diavolo lo aveva conosciuto. E alla fine, dalla storia di Alessandro, ho capito che primo, in realtà non esistono passioni senza senso. Secondo, il Sunderland equivale più o meno al Brescia o all'Atalanta, quindi in fondo per lui sarebbe forse più comodo tifare per una di loro. Terzo, la fidanzata di Alessandro o è una santa, oppure ha in mente qualcosa. Quarto, da quando ho letto la sua storia, mi domando se Umpala sia ancora vivo. Quinto, ovviamente, la prima cosa che farò alla fine di questa puntata sarà andare a cercare Umpala su Google. Prima di chiudere, ciao Matteo, io ho una passione sfrenata per la soap di Rai 3 Un Posto al Sole, non so perché ma non mi perdo una puntata dal 96 e credo siano tante. Andrea da Firenze, ma soprattutto visto che si parlava di passioni senza senso, ma anche hanno preso piede le fidanzate innamorate quasi senza senso, il messaggio di Paolo che dice: io a 3 mesi di relazione con la mia ragazza l'ho portata alla fiera delle macchine Movimento Terra a Parigi, l'anno dopo a quella di Monaco di Baviera, l'anno dopo ancora quella di Verona, e nonostante questo l'anno prossimo ci sposiamo. Viva Paolo e viva lei soprattutto. Grazie a Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Iscrivetevi al live del 5 di ottobre a Genova attraverso il sito, è gratuito, ci sono ancora pochi posti a disposizione. Grazie soprattutto Alessandro, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Stefano sono Sala, vivo a Cecina in Toscana e la storia di domani è la mia e parla degli effetti catastrofici che ricevere una fiducia incondizionata può provocare. Questa è la mia storia e io sono qui.